Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Completato pochi anni fa, il quartiere Casanova è stato il primo grande progetto del comune di Bolzano sull'efficienza energetica in edilizia. Un'ampia operazione di edilizia sociale, un complesso di condomini in classe A in grado di ospitare 3.000 persone, all'avanguardia dal punto di vista dei servizi e della mobilità. Ebbene, nonostante tutto questo, molti residenti si sono col tempo, diciamo, lamentati denunciando problemi, chi troppo secco, chi troppo umido, ma soprattutto consumi più alti del previsto, in qualche caso molto più alti. E così è partita subito la querela. Ma non è che questi grandi progetti di edilizia super efficiente alla fine sono una fregatura? Ebbene, una ricerca dell'EURAC, l'Accademia Europea di Ricerca appunto di Bolzano, grazie anche alla tradizione bolzanina, per cui dal 2008 tutti i progetti di edilizia sociale prevedono il monitoraggio, ebbene, grazie a questo l'EURAC ha potuto far chiarezza e comprendere come mai i conti non tornano. Ne parliamo con il responsabile di questa ricerca, Marco Castagna, ricercatore dell'EURAC. Buonasera Castagna. Buonasera a tutti. Allora, intanto qualche numero, perché poi voi avete trovato in realtà situazioni molto diverse da edificio a edificio. Sì, abbiamo trovato che in 7 condomini su 9 i consumi sono più alti del previsto. Andiamo dal caso proprio peggiore in assoluto, in cui i consumi sono il 167% superiori a quanto preventivato, in più, certo, e mentre nel caso migliore arriviamo a addirittura un miglioramento dei consumi rispetto al previsto di un 21%, quindi la media comunque è di un consumo superiore a quello previsto. Sì, un 50% in più rispetto a quello previsto come media. Ecco, ricordando però che nonostante questo 50% in più rispetto alla media del costruito, invece qual è la situazione? Beh, rispetto al parco costruito di Bolzano, qui siamo comunque sommando un quarto, quindi okay. Comunque è un successo nel complesso questa operazione. Quali sono le ragioni di questi discostamenti che siete riusciti a individuare? Ecco, cominciamo a capire se ci sono stati proprio dei problemi di qualità del costruito, cioè è stato fatto male o è stato progettato male o eseguito male il progetto, c'è un problema di questo tipo? Allora, ci sono sicuramente delle cause tecniche che riguardano più che altro l'impianto e non l'involucro. Noi abbiamo trovato, ipotizzato delle perdite sul circuito di distribuzione di alcuni edifici e poi in altri edifici abbiamo sicuramente la presenza dei fori di ventilazione che sono obbligatori per i piani cottura a gas metano che non erano stati previsti in fase di, diciamo, ecco, di progetto. Nelle abitazioni in classe A c'è una cosa chiamata ventilazione meccanica, una ventilazione forzata, ma poi bisogna che la ventilazione meccanica sia l'unico modo per scambiare aria. Se si cominciano a fare dei buchi non funziona più tutto il sistema di ventilazione, esatto, sostanzialmente, no? E qui ci avviciniamo, diciamo, alla seconda categoria di problemi che voi avete riscontrato. Sì, poi ci sono delle cause, diciamo, che chiamerei tra iterazione uomo-edificio, cioè di utilizzo e di manutenzione degli edifici stessi. All'interno abbiamo misurato delle temperature molto elevate durante tutto il periodo invernale, tra i 22 e i 23 gradi. Ricordiamo che i calcoli sono effettuati con una temperatura media di 20 gradi. Di 20 gradi e che ogni grado in più mediamente sono il 7%-8% di consumi, sì, giusto? Certo. Sì, giusto. Quindi già lì un 25% si spiega facilmente. Poi? Esatto. Poi abbiamo il ricorso alla ventilazione naturale da parte degli inquilini al posto della ventilazione meccanica, dovuta alle abitudini, diciamo, di aprire le finestre. Ecco, la ventilazione meccanica serve per evitare di disperdere il calore ventilando la casa. Se però poi uno apre le finestre, questa roba qua non funziona più. Esattamente. In ultima, direi la gestione e la manutenzione di questi impianti che necessitano di competenze particolari. Per fare un paragone, se io ho la Ferrari non posso pensare di fare il tagliando del meccanico sotto casa. Ecco. Tanto è vero che queste differenze di consumo aumentano all'aumentare della complessità energetica dell'edificio. Bisogna pensare che a tutto il processo edilizio che sta dietro a un'abitazione, i progettisti non sono i costruttori, che non sono gli utenti e che non sono i manutentori, sono 4 soggetti diversi e le informazioni devono partire dall'inizio e arrivare fino alla fine della catena. negli edifici più semplici questo flusso è più naturale, è più facile, negli edifici più complessi è un attimo più difficile e se questa catena viene spezzata i consumi chiaramente aumentano. Grazie Castagna. Grazie a lei, grazie a tutti voi. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.